capito, ti Antonello ha detto che si vuole prendere un'antenna per la 27 che ha i radiali da 7 metri. Voglio proprio vedere cosa crede di aver visto. vabbè. Come sta andando questa radio che la sto pilotando con qualche pastiglietta? Allora, io sto usando la Linco, che è il clone piccolo e il fratello minore del 5005, e mi accende tutti i LED, 9+30, fondo scala. La Linco DX10, non so se ce l'è presente, è più piccola, è in una scala ridotta del 5005. Bellissima radio, me la volevo prendere, ma me l'hanno sconsigliata e mi hanno consigliato il 5005. Adesso non mi ricordo qualche piccolo specco che avevo, ma a me piace tantissimo quella radio. Guarda, ha vari nomi. Prima si chiamava Alinco 135DX, poi l'hanno chiamato DX10, poi in base al paese di Russia, Europa, America gli danno un nome diverso, ma è sempre l'Alinco 135DX. Con le solite cose autoascolto, le calecca, bip, non bip, AMFM, USB, LSB, CPVCA, sì, CVPA, Mac Gain, RF Gain, i soliti canali che puoi usare, clarifier solo ricezione, solo trasmissione oppure trasmissione e ricezione. Diciamo che è versatile, dai, carino, puoi cambiare il colore del display, c'ha la scansione, quindi tu metti lo squelch, mandi scan, ti becca dove e quando stanno parlando, tastino 10 kHz, dual watch, Roger Beep regolabile, te lo puoi fare tipo 3009, tipo Colt, tipo brutto, tipo questo, un po' basso, aspetta. No. Ora. Regolato a caso, l'avevo sentito non so a chi, se a doppio rumore o a chi, l'ho regolato uguale. Sì, è bello, a me piace quella radio, però quando la stavo per prendere, poi stavo parlando con una persona, non mi ricordo chi, e mi ha detto guarda, però per le stesse caratteristiche io prenderei questa, perché questa ha qualcosa in più. Però vabbè, ci penso, però esteticamente mi piace molto di più quello lì che è questo. Allora, questa non ha l'autosquelce, che a me torna molto ma molto utile in AM e in FM. Però ti dico già che questa ha solo 12 AM, 12 FM, cioè in FM ha la stessa potenza della M, e solo 25 di picco in SSB, mentre il 5005 ha 12 AM. 40 FM e altrettanti credo in banda laterale di fabbrica, e sto dicendo poi si può ulteriormente potenziare, però poi comincia a scaldare troppo. Sì, vabbè, io adesso diciamo che io preferisco utilizzare qualche piccolo amplificatore pur di dare meno fatta la radio, ecco, non per... Però anche di sé gli avevo fatto fare la modifica da un amico e me li ha portati più alti in watt. E posso attaccare qualsiasi tipo di amplificatore senza far sì che distorga la radio, a meno che hai un valvolare da accordare e così via, ecco. Naturalmente questo picco in realtà arriva a 24 watt in SSB, cioè sono il doppio della M. Invece il 5005 ha una particolarità strana, mi pare che siano 30 effettivi in banda laterale, no? Fischiando almeno 30, che io ricordi, e in FM addirittura 40, cioè la cosa strana è che in FM, che è una portante continua, ne dà più che non in banda laterale. Quindi il 5005 anch'io lo consiglierei di più, perché è più grande, internamente c'ha più spazio, quindi sicuramente raffredda meglio, che dire... Vabbè, questo era bello compattino per la macchina, che poi macchina non uso più nemmeno. Si può programmare come il 5005, cioè ti puoi fare i canali come vuoi tu. Per esempio, questo c'ha 60 canali per banda. Per dire, da una parte nelle bande alte gli ho messo una banda con i 10 metri con lo zero finale, in modo da ascoltare radiatori da 28,3 a 28,5, no? Con lo zero finale. Poi mi sono regolato i canali inglesi, i 40 canali vecchi dell'Inghilterra, quelli solo in FM, che fanno 27.601.2 a 27.991.2, poi nella banda su ancora ho messo i radioamatori in FM, dove ci sono i ponti in FM, da 29.6 a 29.7, cioè te lo puoi personalizzare come vuoi tu, come canalizzazione. Sì, sì, capisco, cosa che io assolutamente non ho fatto perché non ho tempo di starci attaccato e niente, mi piace smanettare più che altro con i canali, fare una passeggiata, se c'è qualcuno è bene, sono ciccia. Ascolta, tu l'hai mai visto come dietro questo? Questo per programmarlo ha una presa che sembra una presa USB dietro, piccolina, una micro USB, è simile, ma non proprio uguale, sembra una mini USB e ci vorrebbe in teoria il cavetto suo originale, ci siamo? Sì. In realtà questa presa che ha dietro, poi c'è un rinvio di tre filettini che vanno allo stampato, per cui io questo come me lo sono programmato? Ho aperto il coperchio, ho staccato quel rinvio che arriva da dietro, l'attacco è lo stesso del 5500 per la programmazione, se ti ricordi, no? Si toglie il coperchio, si collega al PCB in quel punto che ha 3-4 pin, il cavettino del 5500 e me lo sono programmato così, col cavettino del 5500, anziché comprare il cavetto suo originale che attacchi dietro, che costava un caraccio di soldi. Hai visto, io sinceramente non ho programmato niente, Marco, io l'unica cosa che ho fatto, quando l'ho preso, l'ho dato in mano a questo amico e gli ho detto di abbassare il watt, di mettere più in picchi positivi, insomma ha fatto un lavoro che sa lui, che l'importante è che non distrugga la radio quando attacchi l'amplificatore e basta. E via. Vediamo se Antonello ha trovato questa antenna della 27, Antonè? È la Nazione, la F10. C'è la bobina sopra. È la Nazione sotto, 197 euro. Antonè, però la Grazioli ha 4 radiali da 2,75 m. Tu dove l'hai visto i radiali da 7 metri? Io l'ho letto l'altro giorno, 7 metri e 1 mezzo. È ugualmente che la Grazioli, precisa, guarda, precisa identica. Certo, metto solo la radiale da 1,75 m, insomma la bellezza lì. Sono l'unica a sentire i radiali, c'è anche la bobina. I piedi addirittura sono totalmente diversi. Ah no, c'è il cappuccetto, il coso, no? Aspetta. No, aspetta. Questa è diversa, cioè, quella bobina accetta non ne ha. C'è la bobina alla base. Ce ne sono vari modelli, ce ne sono. Aspetta, rilanciamo Tino adesso. Allora Antonè, forse hai letto male, allora il radiatore 7 metri, radiatore, lo stilo, i radiali sono 2,75, non avrebbe senso avere il radiale 7 metri, e ne tiri buoni, vai Tino. Ma infatti 7 metri sono meme, Antonè, mi sembra strano. Sto dicendo, questo modello qua c'ha la bobina sotto, non ce l'ha al centro dello stilo. Ce ne sono tre modelli, ce ne sono, di questa Grazioli. C'è la bobina tipo la mantova, che è la base, e c'è il radiale che si agganciano sotto. Poi un altro modello addirittura è senza bobina, c'è la bobina sotto e lo stilo senza la bobina sopra. Poi c'è un tipo che c'ha la bobina sopra invece, e sotto non ce l'ha. A metà dello stile, lei HM, pure non mi ricordo cosa cazzo c'è scritto. Questo sono fatto in Italia. Aspetta, ma ne ho visto un altro modello di antenna, aspetta un attimo che la cerco. Lo so, ho già visto, Tino, la conosci l'ultimissima della Grazioli, quella è proprio il top del top del top, non credo che ci possa andare oltre. Sì, sì, l'ho vista, ci vuole un ingegnere a piazzarla, perché anche il più piccolo componente facile da montare, però è una bella antenna, ho visto. C'è fuori di gabbo, è un quarto d'onda accoppiato, no, come il termine, con una 5 ottavi. Cioè la prima parte è uno stile un quarto d'onda, poi c'è la bobina di messa in fase, ecco cos'era quella cosa lì. E poi lo stilo di una 5 ottavi, totale altezza del radiatore 10,30 m, più il palo alla base, cioè lunghezza totale, compreso il palettino alla base, 10,80 m di antenna. E quindi è una bestia, veramente una bestia. Sempre i soliti radiali da 2,75, quindi risultano 7 ottavi, no? Perché un quarto d'onda si legge anche 2 ottavi, no? È uguale. E quindi 5, 2, 7, 7 ottavi d'onda. Dovrebbe avere un guadagno, per esempio, se la 5 ottavi ha 3,5, 3,6 dBi, questa dovrebbe avere 5,6 dBi. Stiamo sempre parlando di decibel, però è una bestia. Il problema è che quello va tirantato anche lo stilo, perché è veramente, ma veramente impegnativa come antenna. Ma deve essere formidabile. Sì, diciamo che ci stavo pensando a prenderla, ma poi abbiamo messo a posto la Mantova 1 e allora niente, ci ho pensato. Sì, diciamo che la 5 ottavi è il compromesso giusto, perché altrimenti diventa veramente impegnativo. Allora Antonè, te la faccio breve. La Grazioli fa la mezz'onda con la bobina ovviamente alla base, la 5 ottavi con la bobina alla base, e poi fa questa 7 ottavi che ha la bobina a una certa altezza, perché mette in fase uno stilo a un quarto d'onda e uno stilo a 5 ottavi, tutto lì. È quella lì che hai visto. Bene. Mi devo lontanare dalla radio, sono in corriere comunque, dai, che sto facendo cose, sto pigliando la pasta per il cane e devo andare in cucina, andare e tornare, quindi se non vi rispondo è perché lo sto bollendo o perché la sto colando. Vai Antonè, rilancio a te, dai. Via, d'accordo. Comunque mi devi far assaggiare quelle salsicce che fai, Quando non hai voglia che sale a trovarmi, porti una e mi dici quanto vuoi. La voglio assaggiare, sei americana, sei sussinca o com'è? Antonè, ne ho fatto 50 kg, mi hanno rubato la mano, credimi. Adesso devo fare 30 kg, ma dopodiché mi fermo perché poi il tempo va a scaldare. Vediamo se riesco a organizzarla, dai. D'accordo, ok. Anda bene. Già ti penso, dai. Ciao, a dopo. Anch'io ti penso, Caruccio, tu sì che mi cambi il nervo. Capatino, d'accordo, noi siamo qua un attimino per un altro po', poi se poi stacco devo fare mettere di media un po' di sciabotto che c'è qua. Quindi capito Antonè, la Grazioli, se ti piace quella con la bobina alla base è 5 ottavi, se no è 7 ottavi, ma se metti con l'antenna gli viene un infarto all'amministratore. Non c'è più con l'amministratore, io che puoi fare a San Giovanni Rotondo, ormai è andata a fanculo. Comunque ci sono dei apparecchi belli, mi è arrivato adesso su Facebook, iscriviti a questi gruppi, condividi con le persone con video di tuo interesse. Aspetti, Dora, c'è solo, ce n'è uno bello, cazzo, deve essere l'effetti 101. Stavo prendendo la fanculo. Sono belli apparecchi, ci sono. Mi ci avessi dato il gruppo. Ci sono dentro, è successo dei nominativi. C'è la Excalibur, c'è come Saturnecco, 250 euro, cazzo. Si capite l'Excalibur? È uguale Saturnecco, solo che è tutto metallizzato. Bene, Va bene. Sì, i radiali 7 metri no, a meno che non siano radiali filari, ma non ne vedo l'utilità in 27, bastano un quarto d'onda, anzi un quarto d'onda effettivo sono molto lunghi come radiali, cioè la Grazione è una bella bestia, eh. Immaginati messa a casa tua a tirare i fulmini dove sei tu, mamma mia. No. Io l'ho visto una vita, sette metri di lunghezza. Allora, poi adesso, cercando così in fretta, è un casino. Però se trovo il commissario te lo mando. Così lo vedi anche tu. È una bella antenna, però qua è pericolosa. Ma passata dai 20 a 120 km, mi trovo l'aria lì giù, mi trovo. Perché, ma sai, è un casino, capito? Ma è quello, adesso l'unica cosa è devo cambiarmi l'antenna, perché la mantova la scendere per portare giù, c'è il palo che sta dando problemi e c'ho le 5 stazionali, se mi metto a caricare i 500 watt crepo il nuovo finale e lineare e non mi sta bene, capito? Ma voglio pensarci nemmeno a spendere altro. Ma cioè hai danneggiato finali del lineare? Sì, c'ho le 5 stazionali, se io salgo di più di 15 watt c'ho le 5 stazionali, cioè c'ho già le 5 adesso, la verità, perché ti vedi allora non sbaglia, è il vecchio e il baracchino. 1 e 5 giusti, anzi quasi 2, la verità, con questo do, aspetta un watt, cioè con lo... che non mi ha mai segnato così, adesso domani mattina devo poter fare forza a cosa, fammi dare lo, aspetta a Saverio con l'accordatore. Pensavo di usare l'accordatore anch'io, mi avevo pensato perché non c'avevo bisogno, invece quanto sembra o è entrata acqua o se no il palo è andato per i tratti suoi, anche perché l'antenna della VU è piazzata oltre un metro, mi sembra strana la questione. Non lo so Antone, se sono ossidazioni non saprei. Una curiosità, in quell'antenna che hai tu, tra uno stilo e l'altro che compone il radiatore, no? Tu l'avevi isolato, cioè ogni volta che la piazzavi l'isolavi bene come ho fatto io con la mia, perché se no trovi un bel di ossido, un bel di ossido di mucillagine si forma. Io mi ricordo quando abbiamo tolto la Ringo, dopo un anno, ti ricordi? Era tutto, c'era ruggine, ossido e una specie di mucillagine, quella che fa l'alluminio quando rimane bagnato, uno schifo era. Vabbè, per fare quella devo scendere l'antenna interna, io lo sai, quindi devo salire sopra con la scala, aspettavo un momento fortuno che non ci sia vento, adesso in questo periodo 2 giorni fa di bello e 3 giorni fa di vento, quindi devo scendere l'antenna interna, passarli, smontarla da sotto dove c'è la piastrina di acciaio, c'è l'acciaio in ferro e vedere se i radiali sono pieni di ossido bianco, se sono pieni di ossido bianco sono fregato, devo quindi la tuta e poi li metto da sotto, siccome non c'ho altre antenne da mettere per il momento, quindi mi sa che mi piglio una B27L provvisoria e se la piglia in culo e l'installo nuovo quella è leggera, se no vedremo un po'. Devo anche pulire il palo è ruginoso perché l'avevo graffiato, ho tolto la zingatura, hai capito? E poi il masso invece gira, ha giocato una cazzata. Aspetta, sto cercando una voce di menù. Emergenza, lascia il canale libero, cazzo. Anche Gio Maria ha sentito. come mai non mi mette, non mi memorizza la potenza bassa? Perché sono in modalità memorie, le memorie sono già memorizzate, non posso modificare la potenza riuscita sulle memorie. La tu sei? Io non c'è più nessuno, questo là. Non c'è più, ormai questo là non c'è più nessuno. Maniaco. Sì, in modalità memoria non mi fa giustamente modificare i parametri che ho memorizzato, in modalità WFO invece me lo fa fare, giusto? Ma non c'era mai quello da dirlo quello, vabbè. Bene, caro Bonfonio, io adesso staccherei magari, devo mettere a posto, tutta la serie dico, bianco devo mettere a posto, bianco devo mettere tutto a posto, qui che ho il mandito di trasallatori, e non ho fatto niente. Dato, sentiamo quando capita. Poi se devi rosmettrare roba con un rosmetro buono, chiamami, già lo sai che c'è quello. È così poco sfruttato quel Daiwa, mamma mia. Vabbè, lo controlliamo, noi già venivamo una volta per controllare, io ti avevo detto lascia stare, ora vieni a fare. Vuoi controllare, vabbè, qui c'ho da cambiare, ma è tutto il capo, è vecchio, sarà bello, bello verde dentro, settato. Devo sapere, quando piove cade l'antenna all'interno del piede, la piede poi va alla calza e poi mi trovo la calza che è di colore cazzo biancastro, perché è un cavo vecchio, capito? Prima di tutto mi voglio cambiare il cavo sulla antenna, c'ho l'RG213, ci metto quello, ci metto il PL e poi vediamo come le, se è vero che le cose non cambiano, allora scendo giù l'antenna e pulisco bene il palo, lo graffio e poi ci passo la vernice con l'alluminio che conduce. Attenzione che sia vernice e non isolantemi, che non ti isoli, che non sia a base di metalli che ti scherma l'antennami. Magari ho detto una cavolata, però non si sa mai alla roba che applichi sulle antenne. Ok, per finire, guarda, questa da tipo BA27L, collaudata, dura in eterno, cioè se isoli tutto, e poi è leggera, non devi tirantare, la puoi mettere bassa, alta, come vuoi tu, cioè, vedi tu Antone. Perché alla fine queste antenne pesanti anche da tirar giù e fare manutenzione sono una vera rottura di balle. Questa la tieni con una mano la porti giù. Ah, se ti ricordi, a proposito di cavo ossidato, il cavo, qui avevamo stagnato anche il PL. Abbiamo messo il PL, avvitato bene, stretto bene, e isolato tutto, dalla filettatura del femmina del PL fino al cavo, tutto stagnato, in modo che per quanto possibile l'acqua entri, o quantomeno che entri meno possibile, dai. È inutile piazzare un'antenna che poi la devi tirare giù perché il PL è ossidato, poi si ossida lo stilo, poi si ossida lo tubo di taratura, poi si ossida la bobina. Io qua avevo anche isolato col vulcanizzante la... Hai visto quel coso trasparente dove c'è la bobina? In alto c'ha un piccolo ring per la tenuta dell'acqua, però lo ring parte. Infatti lì avevo stagnato tutto il vulcanizzante in modo che non entrasse acqua da sopra, da quella copertura in plastica trasparente. E vabbè, sta quando... c'è l'antenna di Luca. Giovanna, c'è un terrazzino, utilizzo quella provvisoriamente finché non mi pulisco l'antenna, la metto sopra nel palo agganciata, tanto non ci vuole massa, gli metto un pezzo di legno agganciato, come si chiama, e fatta la utilizzo provvisoria. Una volta che ho pulito un uovo lavato, vado e gli metto un uovo sopra, tanto è giù buttata nel terrazzino di Giovanna quell'antenna. Ehi, Maria, tanto Giovanna non entra più perché non c'è abbastanza gente per modulare, soprattutto la notte troppo poca gente. Comunque Giovanna al baracchino c'ha una voce molto molto bella, molto bella, squillante, quasi arrapante direi. Beh, c'ha l'apparecchio tuo, c'è, non lo so io, e poi c'è anche Saturnecco, sono tutti e due a casa sua. Non ti offendermi perché è tua sorella, però la voce già è bella al baracchino, è molto, è confortante come voce. Ok, Antone, dimmi un'ultima cosa. Guarda, io adesso sto parlando vicino al mic e adesso sto parlando a 10, anche 15 centimetri. Dimmi se la modulazione scende troppo di audio. No, già va bene, voglia. L'hanno fatto benino, è qua. Ehi, vediamo se c'è rimasto qualcuno, se c'è rimasto Tino, c'è qualcuno all'ascolto che vuole entrare per tenere compagnia a Pomponio, così io chiudo e faccio queste ultime cose, dai. Non mi importa nessuno, ma con gli infermieri mi importa, l'ho visto. Mi hanno detto, ma la figlia. Chi te l'ha detto? Secondo te chi è? La caposala, che c'è giù, appena entra a pronto soccorso, visto vai, quando entri... Non dalla parte del mare, adesso si entra dove usciva per le ambulanze, entri lì, in pratica c'è il primo corridoio, e poi ti trovi una scrivania e c'è quella lì, e quella c'è il portatile, e siccome ho parlato con Giovanna, me lo sono guardato, cioè il portatile come uguale al nostro, io l'ho tolto con due pulsanti, capito? Già modificato, comprato una vita di Sassari. Sono rientrato, Cappatino, dai, io così riesco a sganciarmi e fare un po' di roba, dai, almeno così Pomponio non rimane solo, se no si dispera al baracchino. Eia. E quindi Antonio, vedi tu, dai, comunque la mantova se si può riprendere, pulire, tieniti quella, basta accordarla bene, però, cioè accordata bene, è tutta stagnata e tutto, almeno non stai sempre a buttarla giù e tutto, se no la rottura di balle. Perciò io l'ho voluta isolare bene qua, stagnare tutto lo stagnabile, se no devo salire ogni volta a buttarla giù, disossidare, fare qua. L'antenna una volta piazzata deve durare 20 anni, deve cadere a pezzi prima di doverla cambiare, capito Antonio? Come la penso io, poi qua in condominio non te ne dicomi che mi devo fare 4 piani, già il cuore mio arrivo col cuore in gola, poi sempre devo chiedere la chiave eccetera, verificare eccetera. Ok, riprendi Pino, dai, corre quasi ti per me, vi ascolto mentre metto a posto e ci sentiamo le prossime, ok? Ciao Antonello, ciao gli ascoltoni, ciao anche Pino, riprendi Pino. Bene, va bene Marco, dai, ci si riascolta, dai, cerca di riordinare il più possibile e di entrare più spesso. Antonello, qui si sembra l'antenna? Antonella è in quel paese vicino a... Lo sai. Aspetta, Antonello non riprenditi. Deve essere che gli hai farato, no, che sta. Magari si è distratto un attimo, dimmi. Ho detto, se ne cambia l'antenna Antonello. No, non è contento della sua perché c'ha 1,5. C'ha 1,5 con quei watt del baracchino e dice che ha cotto il finale di un lineare. Non ho capito che lineare è, se ha valvole, se con i transistor, finale o valvole, non lo so. Però Antonello, cioè, se lì ce l'hai a un passo l'antenna, taratela bene se sai di dover mettere potenze. E poi le potenze per cosa? Per parlare da un chilometro? Boh, non ho capito, vabbè. Dai, riprendi Antonello, che mi devo staccare, sennò qua è un casino. Stavo provando, me l'avevo modificato, hai capito? Usciva bene, dopodiché è andato in tilt lo spettatore del dormito che come si chiama, e mi ha fottuto il finale. Invece è andato lineare, grazie a Dio sono stato fortunato, è andato bene, capito? Tutto lì. Siccome di questa mattina adesso ho 1,5 quasi 1,6, se non può dire più. Anzi, bisogna, dopo attacco e lo smetto. E lo so subito. Senza tanta acqua nel piede. Vabbè, però sei attento, cioè, cos'era, valvolare o a transistor? Transistor, quando valvolare c'era il mio ex cognato, quello di, che avevo dato a corso, a Benito, hai capito? E quindi quando gli avevo dato a Benito che funzionava, ho detto, guarda, ho provato a 100 watt io, perché c'avevo, ho detto, problemi, ho detto, provalo tu, l'ha provato lui. Mi sembra l'ha provato una settimana, dopodiché in pratica è partito non so che cosa e me l'aveva tornato. Adesso quello l'ha volato qui a Fabio, ha sistemato, adesso neanche becca lui, fa meridiare il muro lineare e portarlo da un amico a farmelo mettere a posto, per forza. Lui vede cosa da fare. Poi se la cuce di nuovo, cazzo, tutti di te. Io non sono Berlusconi, no. Vabbè, però dipende dal lineare, Antonio. Secondo che lineare è, con i soldi dei finali ci compri il lineare completo, lo sai. Dipende dal lineare, però. Ma là, magari, si costa poco il lineare. 560 euro viene, il BV 2001. E mi sembra che il BV 2002 viene altrettanto. Costano messo questi cazzo di lineare, sono aumentati, ci vuole mezzo milione, cioè mezzo... Qui, figurati, 500 euro per comprarti un bel lineare, va con il transistor, con 6, cioè, da 600 watt, 500, quello che... Oramai, una volta costavano 100-200 euro con i lineari, adesso costano un sacco di lineari, ci vuole un patrimonio, ci vuole, come più un BV131, li trovi quanti ne vuoi su Facebook, a 100 euro te regalo. Ma scusa, BV, ma il BV 2001 non è a valvole? Dipende da quale dici tu, c'è l'MK2 e l'MK3, sono tutte e due a valvole, invece io c'ho il BV 2002, non ci ho preso quello a tassisto, quello grande è con il tassisto dentro, poi ci sono vari modelli, già lo sai, non viene più gira più che ripararlo, compare la scheda di un lineare a 24 volt e fila ce l'ha dentro. No, ma tu mi hai detto che hai bruciato transistor, io quello a transistor che sostituisce il BV2001 credo si chiami B2002, mi pare sia lo stesso cassone con i transistor, però non lo so, Tino forse ne sa più di me, Tino? No, io ho avuto solo il BV131 e la valvola dentro monta il 550p, quello che c'ho io, hai capito, come scheda e come coso. C'ho 550p, sempre che il BV2002 transistor. Poi ce ne sono vari modelli, c'è il B750 dentro, come quello che aveva Mario Manser, ce ne sono vari modelli, ce ne so. Ah, quindi confermi che è il 2002, sì, ce l'ho qua davanti. Sì, praticamente è grande, naturalmente non hai load plate, c'hai solo la potenza, MFM, on-off e poi lo strumento, sì, B2002. Però i finali, Antonè, secondo di che cosa monta dentro, già ti esce il conto, però io parlo di finali originali, perché se mettici in esatte ti dà la metà della potenza, capito Antonè? Se metti i finali originali magari riesci a ripristinarlo come prima, però già ti esce il conto. Sì, non ti credo che sia questo grande. 32 euro costano quei finali. Stazionale, esce a Belen con Cosmet, come da 2500. Vaffanculo, cazzo, vabbè, sarà un bel numero. 1,6, corretto, 1,6 stazionale, quindi quando è così, la bobina, devo smontare da per forza la mantova, salire sopra, smontare la scatola della nera della mandorla e c'è sopra, c'è una bobina nera che in pratica la manda in corto, e quella che è oscillata. Cazzo, mi tocca svuotarla tutto, sai cosa devo dire, cazzo? Un lavoraccio, cazzo. Invece della mandorla 5 è una cazzata fare quel lavoro lì. Perché non devo smontare proprio niente, devo solamente togliere il cavo nero, ricambiarlo e basta. 1,6 stazionale di tondo di tondeggio. Giusti e giusti. Sì, l'ho guardato dentro e c'ha quelli a croce, quei finali Maicom MRF qualcosa, ma a me sembra che costino poco, quello che vedete tu. Va bene, io corretti esecutivo, dai Antonio, devo staccare. Ciao Tino, ciao Antonello e gli ascoltoni. Vai Tino, riprendi. Anch'io dai. Sto facendo due cose al computer, diciamo che non sto proseguendo il vostro questione, comunque. Riprendo il mic per dare i saluti, dai Marco, si riascolta. Ciao Antonello, sono in quel Rix, faccio due cose al computer e devo stare con gli occhi aperti. E a ciotti ci sentiamo le prossime. Buona passeggiata su corso, su computer. Ci sono i sensazionali fuori di testa. Adesso vado su, salgo su, cambio l'antenna. È una cosa un po' strana questa bocca. Insomma, voglio andare a guardare perché si stanno prendendo i coglioni, ma mi sembra strano a me, è distante, più di 2 metri, cazzo, non può essere cazzo che viene a problemi del genere. Adesso vediamo appena cambia il tempo. Faccio la prova, stacco l'antenna a guardare, l'abbasso a terra, se scendo stazione a zero, è quella, se no... immediatamente cambio il capo e cambio l'antenna. Sì, un'ultima cosa Antonè, non so se sapevi, hanno sciabidato tutti i canali dei Cibitalk, i canali pubblici italiani, quelli chiamati gruppi, ce n'è solo uno chiamato Italia 00, tutti gli altri sono canali dual mic, dove credo puoi parlare se hai il dual mic, se non hai il dual mic puoi solo ascoltare, almeno quella era la spiegazione sommaria che facevano. Oppure c'è i canali quelli in portata a 30 km, però tutti i canali principali, ITA, quelli chiamati ITA 001, 002, 003, tutti spariti. Un pasticcio, non c'è più nessuno, o quasi. E vabbè, adesso ce l'ho, mi mancano un po', vabbè, ma comunque prima funzionavano tutti. Poi sono andati altri di canali, scritti in, disegnati in giallo, disegnati in verde, in rosso. E vabbè, poi la maggior parte mi sono fatto un giro, cazzo, nella rubrica. Tutti, cazzo, col divieto erano. Evidentemente parlavano male, cosa avevano messo. Ormai Cibitalk che sta morendo. La maggior parte stanno tutti diventando 27, ho visto me. Stanno facendo. Hanno riaperto dopo la FCB, non mi ricordo dove. E hanno scritto su Facebook che si vuole in pratica iscrivere, libero iscriversi alla loro associazione, non c'è nessun problema, ti mandano tutto, eccetera eccetera, per battere le... hai capito? Di loro in pratica. Quindi questo sta aprendo due con la CB, meglio così. Questa modalità parli con tutti all'interno del tuo squelch che va da 1 a 30 km e diventano 100 per i... Allora ho provato a premere sull'unico canale che c'è di dual mic con gente. Aspetta che silenzio, c'erano 7 persone. DMIT 08, dual mic Italia 08. Ho premuto il PTT ma me l'ha fatto premere. Solo che non parlano, stai lì, non parla nessuno, poi non ho capito se hanno istituito gruppi privati, guarda, non ci ho capito niente. Poi c'è su Italia 00, c'è questa vocina guida che ti indica come funziona la nuova versione di Cibitalk. E l'hanno fatto per vendere questo cacchio di dual mic, capito? Una cassa Bluetooth per ascoltare la musica ed un potenziatore di funzioni di Cibitalk, come già detto. Ecco, tutto sciabidata, vai, non rammare, vai. Vabbè, tanto meno. Quando entravo e senti bisogno della qualità di per i cazzi loro, i siciliani altrettanto. Qualcuno lo sentivi che parlava con gli altri, quindi è meglio che sia andata così a un certo punto. Io ci bitocco, c'ero nel telefonino dove ci bitocco, l'ho dato a Giuseppe, e ci è memorizzato lì, capito? E nel telefonino nuovo non l'ho messo ancora. E non so neanche se ce lo metto, perché non mangio nessuna gara, non c'è Facebook, non c'è nulla, l'ho lasciato la normale per non assellarmi nessuno. L'unico Facebook che ce l'ho è nel 210 e basta, dove c'è anche l'email per arrivarmi la documentazione, cosa non c'è, per adesso ti mando tutto l'email, ti mando la documentazione per fare le domande per l'invalidità, poi quello cazzo per ricevere cazzo, le fotografie, che poi gli iscritti non te ne danno nemmeno, quindi non puoi neanche stamparle, a un certo punto adesso se ne attacca la cura, io quando vado lì a Vizzendo dico, io le foto ce le ho, quindi se volete le foto, vi do la mia email e vi arrangiate lì, ecco, e ve le guardate lì, dal computer, se no vi attaccate a fuoco, scrivete di lì e vi fate mandare il dischetto, perché i soldi per il dischetto non ne ho gratis, ne avete pagato voi, questa roba qui. Anzi, infatti è pagata, vi arrangiate, io non lo voglio sapere proprio niente. Perché gli iscritti sono gratis, non sono a pagamento. E insomma, sta diventando tutto a paga, capito? Carta di credito, entri dove vuoi. Va bene, se lo possono ottenere. Ok, ciao Antone, credito esecutivo, non riprendo, questa volta non riprendo. Ciao. Ciao, ci sentiamo domani, là. Buonas noches. Ciao a tutti, ciao.